Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta. Di Ors Fantazzini, parte nona. Dopo un po' la porta fu aperta ed entrò uno dei detenuti che prima m'aveva adagiato sul letto. Portò un bugliolo e una brocca d'acqua che appoggiò accanto al letto. Disse che era il mio piantone, ma che non gli era consentito trattenersi nella cella. Se avessi avuto bisogno di qualcosa, avrei dovuto chiamarlo tramite la guardia, che stava sempre nel corridoio. Ero così affaticato e debole che decisi che la cosa migliore era riposare ed aspettare che quella situazione assurda finisse. Dopo un po' mi svegliarono. Era di nuovo il piantone che mi portava alla cena, una gavetta di pasta in bianco. Gli dissi di chiamarmi la guardia, ma non ce n'era bisogno perché si trovava sulla porta. Gli spiegai che ero stato operato agli intestini da pochi giorni e che in più avevo la mascella fratturata. Non potevo certo mangiare dei maccheroni. Gli dissi che volevo essere visitato da un medico perché mi sentivo male. Rispose che avrebbe avvisato il capoposto. Fece uscire il piantone e chiuse la porta. Avevo sete e provai ad alzare la brocca d'acqua dal pavimento, ma mi riuscì solo di rovesciarla. Avevo necessità d'orinare, ma non potevo alzarmi e m'ero dimenticato di chiedere un pappagallo. Mi sentii impotente, come non mai in vita mia. Ebbi paura e rabbia. Mi sentivo sfinito. Tenevo gli occhi chiusi perché se li tenevo aperti vedevo delle macchie danzare davanti a me. Erano ormai 4 giorni che non mangiavo e che non ricevevo cure. Cosa sarebbe successo se fossi morto? Niente. Deceduto in seguito a complicazioni dovute alle gravi ferite riportate, l'autorità carceraria avrebbe scaricata ogni responsabilità sulla procura che mi aveva fatto trasferire dall'ospedale. Forse era proprio questo che volevano. Dato che non potevo ascoltarmi il polso, posai la mano sinistra sul collo. Avevo sicuramente la febbre molto alta. Come fare per avvisare mio padre, l'avvocato? Se m'avesse potuto vedere il professore Impallomena. Forse per colpa della febbre mi vennero idee assurde, come togliermi i cerotti e con il sangue scrivere sul muro che ero stato deliberatamente lasciato morire. Ma addormentai o persi coscienza, non lo so. Al mattino fu il piantone a svegliarmi. Mi portava un bicchiere di latte che io bevvi avidamente. M'accorsi che durante la notte avevo urinato nel letto. In altre circostanze mi sarei vergognato a morte d'un fatto del genere, ma quel giorno non vi diedi peso. Chiesi comunque al piantone di procurarmi un pappagallo. Era un ragazzo simpatico e aveva voglia di parlare con me. Mi disse che la guardia in servizio quel giorno era buona e che avrebbe potuto restare tutta la mattinata con me. Bastava dire che doveva farmi la barba o scrivermi una lettera, cose che io non potevo fare da solo. Una lettera. Gli dissi di trovarmi carta e busta, anche dei francobolli. Io ero privo di tutto, avevo solo il pigiama dell'ospedale. I miei indumenti e i miei pochi soldi erano rimasti al carcere di Fossano. Tornò dopo un po', con quanto richiesto, e la guardia lo rinchiuse nella mia cella. Capì subito la situazione, ma disse che probabilmente la lettera sarebbe stata fermata. Un suo amico sarebbe andato a colloquio nel pomeriggio, forse avrebbe fatto in tempo a consegnargli una lettera durante l'ora d'aria. Avremmo scritte due, una l'avremmo imbucata regolarmente, l'altra l'avrebbe data al suo amico. Su entrambe le lettere indirizzate a mio padre, feci scrivere che mi trovavo in una situazione molto difficile, che avevo necessità di vedere l'avvocato con la massima urgenza. Il mio nuovo amico uscì con le lettere e anche per avvisare il capoposto che avevo bisogno d'essere visitato da un medico. Quando tornò, aveva con sé un grosso pacco. Disse che un gruppo di detenuti avevano chiesto al brigadiere di servizio di farmi avere dei generi di conforto. C'era del caffè, zucchero, cioccolata, sigarette, giornali e riviste dei giorni passati, con la cronaca dei fatti di Fossano. Mi venne voglia di piangere, non per le cose regalate, ma per il gesto di solidarietà. In qualsiasi situazione o posto si trovi, un uomo troverà sempre la solidarietà di altri come lui. Gino mi raccontò la sua storia. Era la prima volta che entrava in carcere e disse d'essere innocente. Esasperato, aveva rotto i vetri della sua cella e si era tagliato i polsi e per questo era stato isolato alle celle. Dato che da diversi giorni era tranquillo, gli avevano chiesto di fare il piantone per permettergli di guadagnare i soldi per le sigarette. Aveva accettato perché questo gli avrebbe permesso di non stare sempre rinchiuso, non per i soldi, anche se ne aveva bisogno. Mentre io mi facevo sciogliere in bocca un po' di cioccolata, lui andò a preparare un po' di caffè caldo. Mi fecero bene e mi sentii meglio, ma sentivo d'avere la febbre alta. Quando Gino dovette uscire dalla mia cella, faticai a convincerlo ad accettare le sigarette e le prese solo quando si convinse che io non potevo fumare. Non lo vidi più. Alcuni giorni dopo seppi che era uscito in libertà. La sera finalmente venne un infermiere a misurarmi la febbre e mi fece subito una puntura. Venne altre 2 volte durante la notte a misurarmi la febbre e mi fece un'altra puntura. Poi al mattino prestissimo venne un medico, mi visitò minuziosamente e rimase sconcertato dal fatto che mi trovassi lì da un paio di giorni senza che nessuno mi avesse visitato. Prima d'andarsene mi disse di stare tranquillo, che sarebbe ritornato subito. Dopo un po' lo sentii che diceva al capoposto che dovevano portarmi subito all'infermeria del centro clinico, ordine del direttore. Entrò nella mia cella e mi disse di stare tranquillo, che tutto era sistemato. Infatti, dopo un po' vennero con la barella e mi portarono sopra. Non ho più rivisto questo giovane medico e non ho mai saputo come si chiama. Dato che era il mese d'agosto, probabilmente era il sostituto di un altro medico in ferie. Le celle del centro clinico sono a 2 posti, non c'è acqua e un pitale sostituisce i servizi igienici. Ma in considerazione di dove venivo, mi sembrava di trovarmi in una reggia. Il mio compagno di cella era molto anziano e malato, si trovava in carcere da oltre 15 anni e gli restavano meno di 2 mesi da scontare. Piangeva spesso. Quando gliene chiedevo le ragioni, mi diceva che era preoccupato perché fuori non aveva nessuno, non sapeva dove andare e non sapeva come avrebbe fatto fuori a curarsi. Ne ho incontrati tanti di detenuti che, dopo aver passato la maggior parte della loro esistenza in carcere, sono spaventati dalla libertà che li aspetta. Può sembrare incredibile, ma molti detenuti che hanno scontato pene molto lunghe sono stati talmente plagiati dal sistema carcerario da identificarsi completamente con esso, non riuscendo più ad immaginare modi diversi d'esistenza. È penoso vedere come sono stati spersonalizzati molti detenuti che si trovano in carcere da lunghissimo tempo, lo sguardo spento, l'atteggiamento umile e sottomesso, l'esagerata ossequiosità verso guardie e funzionari del carcere. Il meccanismo penitenziario non è solo impietoso, ma sconfina nel ridicolo. I detenuti vengono classificati in buoni e cattivi, come i bambini, ed è necessario appartenere alla prima categoria per sperare di ottenere un lontano giorno una riduzione della pena, la grazia. Non è difficile ottenere la qualifica di buono, ma è altrettanto facile perderla. Basta rispondere un po' male ad un superiore, litigare con un compagno, non essere sufficientemente zelanti sul lavoro. Il detenuto con una condanna a vita o quasi comprende subito che la sua unica speranza risiede nell'adeguarsi a queste regole. Durante i primi anni si sente frustrato perché la sua esistenza è un susseguirsi di piccole vigliaccherie ed ogni giorno deve rinunciare alla sua personalità. Poi, quello che in un primo tempo era solo un comportamento di comodo diventa una seconda natura ed egli si sente completamente integrato nell'universo assurdo che lo circonda. L'opera di rieducazione e di recupero ha avuto successo. Quello che forse era un uomo o che sarebbe potuto diventarlo è ora solo un involucro vuoto, una cosa senza personalità, senza speranze, senza ideali, che si sentirà smarrito il giorno in cui le porte del carcere si spalancheranno davanti a lui. Ma questo fa sempre più parte di un'altra epoca che i detenuti d'oggi rifiutano. Oggi nelle carceri si legge, si studia, si discute, si analizzano le cause che sono all'origine di tutto e si comprende che il carcere è solo l'anello di una lunga catena che la classe dominante usa da sempre per mantenere i suoi privilegi. Saranno sempre meno i detenuti che si lasceranno recuperare, sempre di più quelli che anziché sentirsi in colpa si prenderanno il diritto di mostrare il loro dito accusatorio. Il pomeriggio fu trasportato in ambulatorio per essere visitato dal vice primario del centro clinico professor Napoli. M'accolse in modo burbero, chiese perché mi rifiutavo di mangiare, d'alzarmi dal letto. Disse che le mie condizioni non erano così gravi da giustificare un atteggiamento del genere. La suora mi tolse le bende, i cerotti erano ancora quelli dell'ospedale, dato che non venivo medicato da quasi una settimana. Il medico esaminò le ferite, misurò la pressione, ascoltò il battito cardiaco e mi fece misurare la febbre. Cambiò atteggiamento, divenne più gentile, scrisse lungamente sul suo registro, mi disse che i suoi colleghi avrebbero esaminato al più presto le lastre radiografiche e mi ordinò di dormire con una coperta, anche se faceva caldo. Da quel giorno fui curato adeguatamente. Ogni giorno mi facevano punture ricostituenti e antibiotici. L'ortopedico mi disse che la frattura era molto brutta e che avrei dovuto portare il gesso per 2 mesi. Era una cosa piuttosto scomoda, perché nel gesso erano incorporati 2 perni, uno infisso nella mano e l'altro nel gomito, per tenere il braccio in trazione. Non vidi l'otorino, ma il professor Napoli mi mostrò le radiografie della testa e così seppi che ero pieno di schegge. Napoli mi disse che a suo parere non avrei recuperato l'udito, solo dalla parte destra fortunatamente, ma che lui non era esperto in materia e che comunque bisognava attendersi che io fossi in condizione di sottopormi ad un esame audiometrico cocleo-vestibolare. Esami che erano già stati ordinati. Durante il giorno le celle del centro clinico restano aperte per permettere ai ricoverati l'uso del gabinetto. Il centro clinico è formato da un corridoio a forma di L, con celle su entrambi i lati. La prima parte è il reparto medicina, la seconda chirurgia. In totale sono circa 30 celle. 80 posti, sempre occupati. Per tutti i ricoverati vi è un solo locale con 2 gabinetti e 2 lavandini, adibito anche a deposito dell'immondizia. Questo locale è in una situazione igienica spaventosa, lavandini otturati, scarichi dei gabinetti che non funzionano, sporcizia indescrivibile ovunque. La mia cella era l'unica a restare sempre chiusa, ma questo non mi disturbava perché per il momento non potevo alzarmi. Avevo iniziato ad esercitarmi a scrivere con la mano sinistra. Era una cosa un po' lunga e difficoltosa, ma almeno potevo comunicare con l'esterno. Dopo alcuni giorni ricevetti un telegramma da mio padre. Aveva dunque ricevuto l'espresso. Mi diceva che l'avvocato era in ferie con Loris e non poteva rintracciarlo. Dovevo fare subito la nomina dell'avvocato Giovanni Cappelli di Milano. Mio padre sarebbe stato a Milano il giorno dopo. Il giorno dopo venne da me il cappellano del carcere per dirmi che a mio padre non era stato concesso il colloquio. mi fece firmare un'istanza preparata da mio padre affinché la procura di Cuneo concedesse ai miei familiari regolari colloqui senza obbligarli a recarsi ogni volta a Cuneo per richiedere il permesso. La procura rispose in pochi giorni con un'ordinanza che delegava alle carceri ove mi trovassi l'autorizzazione a concedere unicamente ai familiari regolari colloqui. Feci la nomina dell'avvocato Cappelli e gli scrissi, ma sia la nomina che la lettera impiegarono molto tempo a pervenirgli. Quasi contemporaneamente a mio padre venne anche mia moglie. Temetti che avesse fatto inutilmente un così lungo viaggio, ma Anna si era preventivamente munita d'un permesso della procura. In casi del genere i colloqui vengono effettuati nella camera del ricoverato, alla presenza dell'agente infermiere. Quando l'infermiere venne a dirmi che il direttore voleva che fossi nella formale sala colloqui, anche in barella se necessario, era egli stesso molto imbarazzato. Mi misero su una sedia a rotelle e scendemmo con l'ascensore. Giunti nel famoso giardino, pregai l'infermiere di cogliermi due fiori, cosa che fece. Davanti alla porta della sala colloqui, chiesi all'infermiere d'aiutarmi ad alzarmi e di sorreggermi. Non volevo farmi vedere dalla mia compagna su una sedia a rotelle. Anna era già là. La guardia mi accompagnò vicino al bancone, divisorio, e mi disse di sedermi. Il bancone è molto largo e al centro c'è un vetro divisorio, alto una quarantina di centimetri. Impossibile parlare da seduti, anche perché i detenuti e i familiari sono tanti e vi è una grande confusione. Stetti in piedi, appoggiandomi al bancone, e per tutto il colloquio temetti di svenire davanti alla mia compagna. Le lacrime di Anna, le carezze di Anna, quest'unione che sembra impossibile ma che si cementa sempre più, come spiegare tutto questo a chi non ha vissuto o non vive esperienze del genere? La mia compagna mi disse che appena ricevuto l'espresso della suora di Fossano mi inviò subito un vaglia telegrafico e degli espressi a Torino, ma che tutto le fu rispedito con la dicitura partito senza lasciare il nuovo indirizzo. A volte i funzionari del carcere sanno anche essere spiritosi. Mi disse che Loris, che era ancora in vacanza con l'avvocato, le aveva mandato un ritaglio di giornale il giorno del 4 o 5 agosto 73, sul quale c'era scritto che ero stato trasferito a Milano, dopo che a Torino m'era stata felicemente estratta la pallottola che avevo nella testa. Dove prenderanno simili notizie? Mezz'ora di colloquio trascorse in fretta, ma il ricordo della mia Anna, che tra le lacrime si sforza di ridere salutandomi con due fiori nei capelli, è un ricordo che resta. Nei giorni seguenti cominciai ad alzarmi dal letto. Ogni mattina mi facevo accompagnare da un compagno al gabinetto, felice d'essere finalmente indipendente per provvedere ai miei bisogni fisiologici. Quando Napoli mi tolse i punti dell'operazione allo stomaco, notai che qualcosa non andava. L'ombelico si era spostato da alcuni centimetri a destra, l'addome era molle e gonfio. Mi fu detto che era un fatto normale, che dopo un po' di tempo tutto sarebbe andato a posto. Recuperavo le forze, m'alzavo sempre più spesso, ma avevo difficoltà a camminare da solo, a mantenere l'equilibrio. Sbandavo continuamente a sinistra. Quando alzavo la testa, i fischi si facevano laceranti. L'equilibrio lo recuperai con il tempo, ma i fruscii e i fischi all'orecchio destro persistono a tutt'oggi. Trascorsi così circa un mese. Non avevo ancora visto l'otorino, né mi erano stati fatti gli esami e le visite previsti. Una mattina una guardia venne a chiamarmi perché in matricola avevano qualcosa da comunicarmi. Scesi in pigiama, appoggiandomi alla guardia. In matricola mi dissero che dovevo partire subito per Torino, i carabinieri già lì ad attendermi. Protestai, dissi che ero in attesa di fare degli esami, che dovevano togliermi una pallottola dalla testa. Per il giorno dopo attendevo una visita di mia moglie. Non sarebbe più stato possibile avvisarla, perché probabilmente era in viaggio. Mi dissero che loro non potevano farci nulla. Se Torino mi aveva mandato a Milano perché ero troppo grave per loro, ora potevo fare ritorno a Torino perché stavo meglio. Avrei continuato le cure là. Se mia moglie fosse venuta l'indomani, le avrebbero detto di proseguire per Torino. Dopo alcuni minuti arrivò la guardia con un sacchetto contenente le mie cose e fui portato a Torino. A Torino non è che furono molto contenti di vedermi. Fui comunque ricoverato subito al centro clinico, senza fare anticamera in celle di punizione, mascherate da COP. Il giorno stesso fui visitato dal professor Ferrara, chirurgo del centro clinico. Riscontrò subito uno sventramento addominale, i punti interni dell'operazione subita a Fossano avevano ceduto. Bisognava riaprire e ricucire i muscoli. Il professor Ferrara disse che avrebbe provveduto lui stesso per l'intervento denominato laparocele. Prescrisse con urgenza una visita otorino-laringoiatrica. 2 giorni dopo fui visitato dall'otorino. Rimase molto sorpreso nell'apprendere che dopo 1 mese dalle ferite nessuno mi aveva ancora visitato. Le radiografie fatte a Milano non erano nella mia cartella clinica, quindi ordinò di farmene delle altre. Prescrisse urgentemente il solito esame audiometrico e cocleo-vestibolare ed in attesa di questi mi prescrisse 2 tipi di punture da fare giornalmente. Dopo queste 2 visite ero tranquillo e fiducioso per la situazione clinica, ma ero preoccupato per la corrispondenza che proprio non funzionava. Avevo perso il contatto con l'avvocato e con la famiglia. Ricevetti una lettera dall'avvocato Cappelli indirizzata a Milano. Scriveva che aveva ricevuto la mia lettera e la nomina e che sarebbe venuto a trovarmi al più presto. Dunque, il mio precedente espresso e la nomina avevano impiegato circa 1 mese a pervenirgli. L'avvocato Leone arrivò a scrivermi in triplice copia, indirizzando a Milano, a Torino e a Cuneo. Mi disse che mia moglie era stata a Milano, ma non mi aveva trovato e non le fu spiegato dove mi trovassi. Evidentemente i miei telegrammi, i miei espressi riposavano in qualche cassetto. Il professor Ferrara mi visitò nuovamente, dicendomi che appena avessi fatte le visite prescritte dall'otorino, avrebbe iniziato gli esami che precedono ogni intervento chirurgico. Era molto gentile e sono certo che era in buona fede. Dopo alcuni giorni, una mattina mi chiamarono in matricola. Scesi accompagnato da un detenuto che mi aiutava a mantenere l'equilibrio e da una guardia che ci faceva strada. Ci accompagnarono nell'ufficio del maresciallo. Nell'ufficio c'erano alcune guardie. Il maresciallo Parenti era seduto alla sua scrivania, particolarmente soddisfatto. Mi disse che aveva da farmi 2 comunicazioni. Aprì un cassetto e ne prese una lettera espresso dell'avvocato Leone. Disse che l'aveva da alcuni giorni e che s'era dimenticato di darmela. Poi, sempre più soddisfatto, mi disse che sarei stato trasferito. Gli chiesi per dove e mi rispose Sulmona. Gli chiesi quando e mi rispose immediatamente. Era chiaramente una provocazione. La mia calma lo irritava visibilmente. Il maresciallo Parenti, persecutore di tanti compagni, ha sulla guancia sinistra una profonda cicatrice. Un bello sfregio. Seppi poi che è un souvenir di Sulmona, ricordo affettuoso d'un certo Di Pino, al quale l'aguzzino Parenti aveva forse un po' rotto le scatole. Con calma gli dissi che sarei partito dopo essere stato visitato dal professor Ferrara. Se questi avesse detto che ero in grado di sopportare una così lunga traduzione, sarei partito. Perse completamente le staffe. Cominciò ad urlare che io avevo finito di fare il duro, che mi avrebbero trasformato in un agnello. Fece uscire il detenuto che mi aveva accompagnato, mi prese per i capelli e cominciò a scuotermi violentemente la testa, gridando minacce ed oscenità d'ogni genere. Caddi sul pavimento, la testa mi faceva molto male ed ero completamente incapace di governare il mio equilibrio. Le guardie presenti imbarazzate mi aiutarono ad alzarmi e, vedendo che da solo non stavo in piedi, continuarono a sostenermi. Il signor Parenti s'era calmato e si era di nuovo seduto dietro la sua scrivania. Ritrovato l'equilibrio, raccolsi la lettera del mio avvocato, con calma la mostrai a Parenti e gli dissi che quello era l'avvocato che aveva denunciato il direttore, il medico e il maresciallo del carcere di Bologna. Come forse lui sapeva, questi signori erano stati sospesi dalle loro funzioni, in attesa del processo. Con calma gli dissi che l'avrei denunciato. Ordinò di portarmi fuori. Fui portato in un ufficio vicino dove potei sedermi. Dopo alcuni minuti Parenti entrò nell'ufficio. Il suo atteggiamento era completamente cambiato. Mi mostrò un foglio e mi disse di leggerlo. C'era scritto che le mie condizioni generali non erano d'ostacolo al mio trasferimento a Sulmona, sede destinata per me dal Ministero. Era firmato dal direttore e dal primario del centro clinico, del quale non ricordo il nome. Non avevo visto questo primario, non ero mai stato visitato da lui. Parenti mi disse che potevo vedere che la decisione di trasferimento non veniva da lui. Lui doveva solo eseguire gli ordini. L'improvvisa diplomazia di questo individuo è molto illuminante sulla vigliaccheria che accompagna molti funzionari delle nostre carceri. I detenuti che non si piegano ma che non hanno la fortuna di essere seguiti dalle famiglie o dall'avvocato vengono sistematicamente schiacciati, subiscono prevaricazioni ed angherie d'ogni genere. Altri che, come me, possono contare su appoggi esterni, è raro che subiscano maltrattamenti fisici. Vengono ugualmente schiacciati, ma più intelligentemente, semilegalmente, burocraticamente, con le firme giuste. La storia di questi miei ultimi 26 mesi vuole proprio essere una prova di questo. Il carcere di Sulmona era una volta un'abbazia antica e pregevole. Quello che colpisce in questo carcere è l'altezza dei soffitti, la vastità dei cameroni comuni. Colpisce anche il silenzio e l'aria di rassegnazione che vi stagna. Il medico di Sulmona si chiama Alfonso De Deo ed è un personaggio notevole. È vicepresidente dell'Associazione dei Medici Penitenziari, associazione della quale il primario di Torino è il presidente. Tra vicepresidente e presidente non c'è assolutamente nulla in comune. De Deo è uno dei quei pochi che non esitano a mettersi in contrasto con la direzione del carcere e anche con il ministro quando ritengono che i più elementari diritti dei detenuti vengano lesi. I detenuti lo sentono amico e lo amano. Ha anche pubblicato un libro presso Feltrinelli sui problemi sessuali dei detenuti. Quando giunsi a Sulmona, De Deo era in ferie, avrebbe dovuto riprendere servizio dopo alcuni giorni. Fui subito visitato da un suo sostituto che, resosi conto delle mie condizioni, chiamò e telefonò a De Deo. Quando il giorno dopo De Deo mi visitò, non nascose la sua rabbia verso coloro che spediscono da un capo all'altro della penisola un detenuto che avrebbe soprattutto bisogno di aiuto. Fece subito un fonogramma urgente al ministro, chiedendo il mio trasferimento al più vicino centro clinico per essere operato di laparocele, esami audiometrici e cocleo-vestibolari ed eventuale rimozione delle schegge dalla testa, medicazioni ed eventuali sostituzione del gesso al braccio, dato che dopo il trattamento degli ultimi tempi i perni di trazione avevano probabilmente causato un'infezione. Per la prima volta, dopo i fatti di Fossano, non ero costretto a restare rinchiuso in una cella. Passeggiavo quindi lentamente, appoggiandomi ai muri, negli spaziosi corridoi deserti. La maggior parte dei detenuti lavorava quindi durante il giorno. Il carcere era pressoché deserto. Simpatizzai con diversi ragazzi, ma la maggior parte dei detenuti mostrava un certo imbarazzo quando mi incontrava nei corridoi. Seppi poi che un paio di settimane prima una trentina di detenuti erano stati portati nel cuore della notte alle celle, maltrattati e trasferiti in altre carceri. Erano quasi tutti giovani e questo spiegava perché in quel periodo c'erano quasi solo vecchi a Sulmona, silenziosi e impauriti. Tra le carceri da me percorse, Sulmona è quello che si trova più vicino ad Anna ed i miei figli. 180 km per strada, 310 per ferrovia. Finalmente mi fu possibile trascorrere un'intera giornata con la mia compagna e i nostri figli. Seppi che dopo essere stata invano a Milano, Anna si fermò a Bologna affinché l'avvocato mi rintracciasse. Quando ebbero la certezza che ero a Torino, Anna e i ragazzi vennero a trovarmi, ma io non c'ero più. Libri ribelli. Libri ribelli.